non ci meravigliamo dei dati che abbiamo ricevuto, ci dicono quello che già sapevamo, cioè che questi Ficobus sono sostanzialmente un flop. Siamo passati dai 6 passeggeri dell'apertura ai 4,6 passeggeri, insomma, di media, e questo significa che ci sono autobus addirittura che girano vuoti e per una media di appunto 4 passeggeri, che per cui sarebbe sufficiente uno scuolabus, quindi continua lo spreco e noi continuiamo a dire che questa cosa si deve fermare. Regione e comune non sono d'accordo. Sì, non sono d'accordo, abbiamo scoperto tra l'altro una cosa piuttosto curiosa, abbiamo chiesto in qualche modo i contratti relativi sia alla caratterizzazione della livrea degli autobus sia al contratto vero e proprio di gestione degli autobus, e abbiamo nostro malgrado scoperto che all'interno di questo contratto si dice letteralmente che questi autobus non possono essere distratti, quindi utilizzati per altri percorsi, altre linee del territorio. Quindi sostanzialmente Tiper si è legata mani e piedi con questi autobus che noi ormai fino a fine anno siamo sostanzialmente obbligati a utilizzare e continuare a sprecare risorse sulla linea per il parco giochi, chiamiamolo così, di Farinetti. Quante risorse sono state investite su questi autobus? Allora, questi autobus facevano parte di un acquisto complessivo, erano sostanzialmente 9 Urban Way per 4,3 milioni di euro. Quelli che vengono dedicati al percorso stazione Fico sono 4 mezzi che costano all'incirca 500 mila euro ciascuno, quindi parliamo di 2 milioni di euro. Quindi insomma bisognerà aspettare la fine del 2018 perché finisca la sperimentazione? Sì, e speriamo che qualcuno metta fine a questo spreco, nel senso che noi abbiamo sempre chiesto, visto che i dati erano stati chiari sin dall'inizio, il contratto è stato firmato a febbraio quando già si sapeva che sarebbe stato sostanzialmente un flop. Ora, sempre rispettando questo contratto, noi non possiamo utilizzare questi mezzi per linee che magari ne avrebbero più bisogno, e quindi almeno ci attendiamo che a fine anno qualcuno prenda una decisione in questo senso.